continua, continua, che domani mattina mi diverto con tua madre. Attenzino. Non ti basta rompere il coglione a baracchino mattina e sera. Non ti basta! Poi di che non sei tu che rompi il coglione, eh? Coglione! Vedi quanto sei froscio! Froscio! Mattina come rompe coglione tua madre, li rompe coglioni! Ma quello è attaccato. Attaccalo. Affronto, ma fanculo a te quando ti alza la mattina, che ti alzassi morto almeno.